prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. C'è un momento per fare le cose e per entrare in una felicità possibile. Tale momento dura qualche giorno, talvolta qualche settimana, o persino qualche mese. Ma si verifica solo una volta, soltanto una. E se in seguito si vuole tornare sui propri passi, è semplicemente impossibile. Non c'è più posto per l'entusiasmo, la convinzione, la fiducia. Rimangono una rassegnazione dolce, una pietà reciproca e rattristata, la sensazione inutile e giusta che qualcosa avrebbe potuto esserci, che ci si è semplicemente mostrati indegni del dono che c'era stato fatto. Michel Houellebecq, La carta e il territorio. Turn your eyes away. Is there a time for keeping your head down? For getting on with your day? Is there a time for cold and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time for high street shopping? Quella che state sentendo è Miss Sarajevo, una canzone che gli U2 dedicarono alla guerra terribile di Bosnia-Erzegovina e che soprattutto racconta l'assedio, il lungo assedio della città di Sarajevo, durato dal 5 aprile del 1992 al 29 febbraio del 1996. Avevano praticamente più niente da mangiare, ma c'era una ragazzina, Samra Gulamovic, che andava, nonostante tutto, al conservatorio, dove praticamente non c'era più nessuno. Andava a suonare, Samra Gulamovic. Un professore che pensava di smettere di insegnare decise di restare, per seguirla. La sua dedizione e il suo amore per la musica erano dunque contagiosi e Samra Gulamovic, nonostante tutto, suonava in una città senza più forze. Perché, come diceva Tabucchi, le risorse per una propria felicità sono in qualche modo inesauribili. E tu eri felice nel frattempo, perché le persone possono essere felici nei loro frattempi. Antonio Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi. Different names you find it hard to spell. Is there a time? Durante l'assedio di Sarajevo furono uccise 12.000 persone. I feriti furono oltre 50.000, l'85% dei quali tra i civili. Nel 95 nella città erano rimasti in 300.000, il 64% in meno di quanti non fossero prima della guerra. Samra non andò via. Quello che visse è difficile da raccontare. Ci vorrebbero tante, troppe parole. Ma Samra Gulamovic ha continuato ad usare la musica per comunicare. Nel frattempo, finita la guerra, si è diplomata ed è diventata direttore dell'Orchestra Filarmonica di Sarajevo. Ora la chiamano in ogni angolo del mondo. Ha un talento incredibile, è una persona gentile, disponibile, piena di armonia e di voglia di pace. Come tutti coloro che hanno vissuto la guerra, sa che nulla è scontato nella vita e per questo si gode tutto, quasi come fosse una bambina. Ho studiato al conservatorio durante la guerra, non è stato facile, eravamo a Sarajevo. Durante la guerra avrei potuto smettere di studiare, ma non ci riuscivo. Andavo a scuola, all'inizio non badavo alla guerra, volevo suonare, ma via via la situazione si è fatta sempre più drammatica. Le bombe colpivano la città, mancava il cibo, le medicine, qualsiasi cosa. Fu un periodo duro, difficile, ed è difficile anche da raccontare. Molti nostri amici erano stati uccisi, altri erano riusciti a fuggire per tempo. Eravamo rimasti circa 300.000 a Sarajevo. Non c'era più niente, né acqua, né cibo, né elettricità. Ogni singolo negozio chiuso, tutto distrutto, non c'era più niente. Ma io decisi di continuare ad andare al conservatorio. Ed è stato grazie a quella scelta, considerata folle, che la mia vita è ricominciata. È stato grazie a questo gesto di ribellione contro la guerra che la mia vita si è risollevata. I don't know how to explain. This situation is not so good. The political situation is complicated because we have. Oggi la situazione è diversa. Ovviamente la situazione politica non è buona, c'è molta instabilità e devo dire che ci sono anche molti conflitti ancora forti dal punto di vista culturale e anche etnico. Questo riguarda soprattutto il paese per intero, anzi si acutizzano queste tensioni in provincia, anche se Sarajevo non si può dire di non sentirle. Ovviamente stiamo parlando di situazioni ancora tollerabili, niente rispetto a quanto abbiamo vissuto negli anni 90. La questione che io mi sono posta è stata: devo restare? Devo restare o andare? Ho scelto di restare e diventare portatrice di cultura, perché è solo la cultura, l'amore per la cultura che libera le persone, anche dai conflitti. What is the music for me? Yeah. You know, the music is everything for me. When I was young, I started to conduct and to play piano, and after that, during the war, for me the most important thing to make a music and to become a conductor, and we didn't. Se lei mi chiede cosa è per me la musica, io le rispondo che per me la musica è davvero tutto, davvero tutto. Quando ero bambina ho cominciato a studiare piano e da giovane ho cominciato ad esibirmi. Sognavo di diventare una direttrice d'orchestra. Suonavo durante la guerra, mancava la luce, mancava l'acqua, faceva freddo, faceva caldo, cadevano le bombe, non c'era da mangiare. Io suonavo perché era l'unica cosa che volevo davvero fare, perché era l'unica cosa che mi teneva in vita. Dopo la guerra ho cominciato a fare l'assistente e poi il direttore d'orchestra. Era il mio sogno che prendeva forma. Questa è la storia, molto in sintesi, di una grande passione e di una grande musicista. Questo, invece, è un breve estratto di un concerto diretto da Samra Gulamovic. Dopo la viabilità, torniamo con la seconda parte di questa storia. A tra poco. sono Enrico Ruggeri. Anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. La genialità ribelle di uno che vedeva il calcio a modo suo, Eric Cantona. Una grande voce che continueremo a ascoltare a lungo, Giuni Russo. L'uomo che ha insegnato a leggere a tutti quelli che non potevano farlo, Louis Braille. Tra cinema, gioco, donne e avventura, la vita di Omar Sharif. Una vita sfavillante e piena di misteri, Amanda Lear. Tutti i giorni alle 15.30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. La vita vera non si può ridurre a parole, dette o scritte. Nessuno può farlo, mai. Don DeLillo. Punto Omega. Era il 1994, l'assedio a Sarajevo era in corso da 2 anni. Molti musicisti della Filarmonica di Sarajevo erano stati uccisi, altri erano riusciti a fuggire. L'orchestra non si incontrava da almeno 2 anni, ma quel 19 luglio 1994, in un teatro praticamente devastato dalle bombe, con chi rimaneva dell'orchestra, il maestro Zubin Mehta eseguì il Requiem di Mozart, quello che state per sentire. Samra Gulamovic era tra i musicisti che vivevano a Sarajevo durante l'assedio e la protagonista della nostra puntata. Oggi Samra è la direttrice della Filarmonica Orchestra di Sarajevo. Quello che non dobbiamo dimenticare quando la guardiamo di spalle mentre dirige un concerto è la ragazzina, dunque, che andava al conservatorio durante l'assedio. È la musicista che sognava di dirigere un'orchestra proprio nei giorni in cui l'orchestra di Sarajevo veniva distrutta, con un numero altissimo di perdite in vite umane. Nonostante la guerra, nonostante molti musicisti siano morti sotto le bombe, l'Orchestra Filarmonica è sopravvissuta e ha celebrato gli 85 anni di vita, grazie anche a persone come Samra Gulamovic. A lei abbiamo chiesto se si ricorda quando fu la sua prima volta, quando cioè la sua vita prese la direzione che oggi ha. Actually, it was during one fu durante un seminario per direttore d'orchestra. Eravamo al conservatorio, credo fosse nel 1995. Non era ancora finito l'assedio di Sarajevo. E il mio debutto come direttore d'orchestra fu in fondo l'esame finale del conservatorio. Poi arrivarono i concerti, ma dopo, quando terminò l'assedio a Sarajevo. And now I am a conductor in the Philharmonic Orchestra and I am a director of Sarajevo Philharmonic. You know, I started to work with the Sarajevo Philharmonic and in questo momento sono il direttore dell'Orchestra Filarmonica di Sarajevo. La cosa che mi rende più orgogliosa è il fatto di essere chiamata anche in altre città, in altri teatri. Io sono felice perché di fatto questo è il mio sogno da sempre. Quando ero bambina andai con mio padre a vedere un concerto e decisi da subito che sarei diventata un direttore d'orchestra. Questo è ciò che ho fatto e per raggiungere questo obiettivo ho lavorato moltissimo e mi sono divertita moltissimo. Devo dire che la musica ha fatto decollare la mia vita. Lei può immaginare, ho lavorato senza sosta, giorno dopo giorno, ho letto, studiato, ascoltato. Soprattutto ho cercato di non lasciarmi mai andare, anche durante la guerra. Adesso sono stata da poco chiamata al Teatro Verdi a condurre un'altra orchestra e questo è molto importante. La mia passione mi permette di andare avanti e mi ha permesso di essere ciò che volevo essere. La musica è davvero la cosa più importante. While doing it, I could hear my inner voice telling me, this is it, this is what your life and passion is going to be. Samra è una storia che scardina tanti luoghi comuni, compreso quello che ci riguarda e che ci fa credere d'essere felici o almeno più felici di altri. Le nostre esistenze si erano raccolte intorno a quest'attimo sublime. Il nostro amore reciproco, la luce, l'immenso spazio che ci si apriva dinanzi. Eppure, noi non sapevamo coglierne l'essenza. Non sapevamo tenercela dentro. Non eravamo capaci di vivere liberi il nostro presente e insistevamo nel voler liberare gli altri. Volevamo pensare alla loro infelicità. Usavamo la loro miseria per mascherare la nostra. Ian McEwan, Cani Neri. Samra Gulamovic è una donna di grandissimo talento, una musicista forte, combattiva, ironica, capace di condurre con maestria un'orchestra e di intrattenere il pubblico durante le prove di uno spettacolo, con pezzi tipo quello che stiamo per ascoltare. Quella di oggi è una storia che ha passaggi immensamente tristi, ma rettilinei di libertà, felicità, allegria, che altrimenti non si sarebbero visti. E allora vi salutiamo con questo pezzo diretto dalla Gulamovic. Buon 2016 a tutti quanti.